Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo quasi puntuali, 21 e un minuto di questo giovedì 17 ottobre 2013. Buonasera, come sempre il giovedì, insomma, tocca a me, tocca ad Agostino Spolaore a darvi la buona serata, a condurre questa trasmissione. Ormai lo sapete, non da solo al 50%, perché l'altro 50% c'è il mio fedele compagno, e cioè Maurizio Calzavara. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Stasera sono molto emozionato. Sì, come mai sei molto emozionato? Perché c'è una persona carissima qui in studio che è venuta a trovarmi, ed è Licia Missori. Ciao Licia. Ciao. Ben trovata. Anzi, grazie. Benvenuta. Finalmente ci conosciamo anche di persona. Finalmente, infatti. Che fa parte dei Never Flowers, delle Never Flowers, che è un trio di ragazze, di donne, insomma, che ha fatto un disco che è appena uscito, bellissimo, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima devo presentare un'altra ospite graditissima che è ritornata in questo studio, e cioè Elisa Bonomo. Ciao Elisa. Ciao, ciao a tutti. Stavolta non ho sbagliato nome, cognome. No, detto giusto. Ben ritornata anche qui a te, insomma. Grazie. Ovviamente. Allora, prima di parlare di questo disco, di queste ragazze, i nostri dati ovviamente che dovete saperli, perché insomma magari qualcuno può anche interessare mandare un sms. Per esempio il nostro numero è il 346 23 20 033. Se invece ci volete chiamare in studio, vi ricordo lo 049 875 6423. Le nostre frequenze sulla regione del Veneto è 88700 e 94600 MHz in modulazione di frequenza. Invece se ci state ascoltando in streaming, siete collegati nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. lì ci trovate di tutto e di più, dalle recensioni, i fatti e quant'altro, insomma, e soprattutto inerenti alla musica ovviamente, ma insomma trovate anche un po' di quello che succede nella nostra cara amata regione. E poi sulla home page, cliccando ascolta la radio, la sentite in diretta 24 ore su 24. Allora, poi abbiamo le pagine su Facebook, ricordiamo anche quelle, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, dove trovate tutte le informazioni inerenti appunto anche lì ai fatti, agli appuntamenti che succedono, alle interviste che facciamo qui di sera dalle 21 alle 24, tutte le sere o quasi, insomma, mancano solo due giorni, sabato e la domenica, ma gli altri giorni veramente dedichiamo lo spazio a questi artisti emergenti, appunto come le Never Flowers, che è un trio, dicevo, e questo trio è composto da Licia Missori. Esatto, che li pianoforte. Poi c'è Valentina Spreca, la voce, e c'è anche Fabrizia Pandimiglio al violoncello. O meglio, qui è scritto cello, ma insomma comunque va bene violoncello. Certo. Che non ne abbiamo qui, ma ne abbiamo al telefono. Ciao ragazze! Ciao! Ben trovate anche voi, peccato non siete qui. Ci dispiace anche a noi, ma siamo lì in generale. Questa è Valentina che sta parlando? Sì, sono Valentina, adesso Fabrizia, vai. Ciao. Ciao Fabrizia, siete timide? Mi diceva. Un pochino. Un pochettino, vabbè. Siamo in streaming in tutto il mondo, non dovete preoccuparvi. Ecco appunto. Allora, che si dice a Roma intanto? Si dice che stiamo per mangiarci una bella carbonara. La faccia mia, maledette. Finché sono stata a Roma non si è mai parlato di carbonara. Appena vado fuori... Sì, musicalmente però è molto interessante, al di là della carbonara, è una cosa a quest'ora va bene alla salute. Musicalmente è un trio molto interessante perché c'è l'uso del violoncello, c'è l'uso della voce chiaramente, da soprano, da mezzo soprano a seconda dei punti di vista, e c'è l'uso di una pianista classica come Licia. Come mai l'idea di questo inusuale accoppiamento violoncello, pianoforte e voce? Chi ha avuto l'idea di questo trio inusuale musicalmente parlando, cara Licia, visto che stasera... Credo di averla avuta io, se ben ricordo. Sì. Credo. Ecco, sì. Sì, l'ho avuta io perché volevo fare un progetto con Valentina, fortissimamente, perché c'era un feeling... Notevole, e però al tempo stesso volevo aggiungere qualcosa di speciale, che non fosse semplicemente... Il colore del violoncello. Sì, esatto. E quindi dopo qualche mese di ricerca abbiamo trovato la sventurata che ci ha risposto. Che è Fabrizia praticamente. E l'uso del violoncello dà un certo colore. Parlavamo prima con Licia, io che ho una certa età musicalmente parlando e amo certe musiche decadenti. decadentismo musicale è una bella corrente, ma il decadentismo del rock è una corrente ancora migliore, se mi è consentita l'espressione. E mi ricordava vecchie cose, vecchi amori psichedelici o tra gli anni 60 e 70. Io cito i Mezzi Star, non so se li conoscete, i Mezzi Star, gruppo straordinario che ha fatto un disco proprio di recente, dopo tanti anni, e usa spesso volentieri il violoncello. La voce del violoncello impastata con le scale del pianoforte danno un certo fascino, fascino anche del notturno, del nascosto, del misterioso, ma un fascino. E secondo me questo è un disco abbastanza affascinante su certi punti di vista, anche musica pop, ma il pop fatto in una certa maniera, che non è il solito pop. Questo secondo me è quella la chiave di volta del disco. Certo, poi il violoncello di per sé è una voce, secondo me, è un'altra voce. Esattamente, il violoncello è una voce, chiaramente. E quindi avete iniziato questo progetto, Licia, avete le basi, come si sono sviluppate? Ma è stato tutto molto naturale, cioè io ho scritto dei pezzi. Hai scritto dei pezzi, li hai fatti sentire a Valentina, e Valentina poi li ha fatti sentire, avete con Fabrizio praticamente. Sì, all'inizio abbiamo fatto un live soltanto io e Valentina per metterci alla prova. Tra l'altro abbiamo deciso il nome del gruppo il giorno prima del live. Perfetto. Con grande felicità del gestore del locale che ci chiedeva: ma come vi chiamate? E da cosa nasce questo nome? Never Flowers. Innanzitutto è un nome che suona bene, e questa è la prima cosa. E che non esiste già. E secondariamente è un nome che rappresenta un po' l'atmosfera dei nostri brani, perché c'è la delicatezza del fiore, ma quel never davanti che è quasi a dire in realtà non esistono, in realtà i fiori non ci sono, è qualcosa di surreale, di inquietante, non si sa bene se quello che raccontiamo esiste oppure no, è un po' sospeso. Volutamente sospeso. Sì, sospeso. E quindi l'idea anche del gruppo è quella. È venuta da te l'idea? L'idea è venuta da un brainstorming mio di Valentina, perché io all'inizio avevo proposto un altro nome ma lei non era d'accordo, e quindi abbiamo cominciato a spedirci email ognuna con 20-30 nomi. 50 nomi all'attivo. Tu cosa avevi proposto, Valentina, così scopriamo qualche altarino? Nomi improbabili, molto ricchi di significato, ma purtroppo suonavano male. Quindi non... per ovvi motivi non andavano bene, non potevano essere approvati. Li avete depennati subito praticamente? Sì, sì, purtroppo. Perché, sì. Never Flowers è nato da un SMS, mi ricordo. Quello definitivo. Esatto. Esattamente. Che difficoltà trovate a suonare insieme? Adesso glielo chiedo a Fabrizia. Vai Fabrizia. Difficoltà nel suonare insieme? Sì. Ma personalmente nessuna. Nel senso che il violoncello e il pianoforte sono due strumenti che a mio parere si incontrano, insomma, molto bene. E io vengo dalla musica classica, quindi nel mondo classico è una cosa abbastanza usuale. Con la voce tutto, insomma. Personalmente non abbiamo difficoltà. Abbiamo difficoltà nei live perché l'amplificazione del violoncello, essendo appunto strumento classico usato normalmente senza amplificazione, nei locali, diciamo, crea dei problemi. Sì, esatto. Chiaramente, ma superabili i problemi, assolutamente superabili. Sì, sì. Decisamente. Poi la voce crea determinate percorsi. Io ho scritto qualcosina su questi pezzi e la voce di Valentina, che adesso mi sta ascoltando al telefono, è una voce che corre su dei sentieri anche folk, ma anche corre su dei sentieri, prima parlavo con Licia, prima al maschile con quella di Anthony and the Johnson. Quei sono i tuoi sentieri, secondo me, in alcuni momenti, cara Valentina. Cosa dici? Io dico che per quanto riguarda la scrittura di Licia, mi piace moltissimo questo simoro, nel senso questo contesto che c'è tra la scelta di una voce molto scura, no? Molto profonda. Come e poi, quella di Anthony, chiaramente. Che va a toccare picchi più alti, quindi certo, un po' più cristallini. Lina ti dà modo anche di esprimere tanti colori e quindi di crescere, no? Anche durante il percorso. Esatto, ci sono dei pezzi in cui la voce trasporta il violoncello e il piano, pianoforte, secondo me li trasporta in una certa maniera e quindi colora il pezzo in una determinata maniera. Poi ci sono altri pezzi in cui è il pianoforte al centro dell'universo sonoro, poi altri pezzi in cui c'è il violoncello al centro dell'universo sonoro. Quindi ci sono tre momenti differenti nell'insieme dei delle sette tracce del disco. Se posso permettermi, mi piace pensare a questo trio come qualcosa di, non la voce, la classica voce al centro dell'attenzione, ma mi piace che ogni strumento abbia una sua importanza molto grande e quindi non esiste un, diciamo, leader, se no, vogliamo. No, assolutamente no, c'è una cosa concreta assieme, proprio un'unione totale di tre intenti, delle tre emissioni sonore, perché anche il violoncello, come giustamente ha detto lì, c'è una voce, e anche il pianoforte è una voce. Assolutamente sì. Facciamo ascoltare qualcosa allora da questo splendido disco. C'è la traccia che apre il disco, che si chiama, Licia? Surrealite. Vedo che sei preparato. L'ascoltiamo e poi torniamo in studio. Voi state lì, mi raccomando. When there's no light, I can sense your nightmares in the night. Night, where the fairies sing their songs, where the autumn leaves will never fall. We belong. Light will fall into the sky. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ecco, avete sentito la canzone che apre questo disco. Io vi confesso un aneddoto mio privato personale, ma insomma è giusto che lo sapete. Quando mi è arrivato questo disco, che Licia gentilmente mi ha inviato ancora mesi fa, due cose mi sono successe. La prima, due emozioni fortissime. La prima, quando ho inserito il disco nel lettore, che è partita questa canzone, che secondo me è una delle bellissime canzoni del disco, è stupenda, questa che apre questo intero lavoro, e poi vedere il mio nome scritto nella copertina. A te Licia, che ci siamo sentiti un sacco di volte al telefono, non te l'ho mai detto, lo faccio pubblicamente, così sento anche Valentina e Fabrizia, vi ringrazio di cuore di aver messo il mio nome nella copertina del disco. Grazie a te, si vede che te lo sei meritato. Grazie, siete gentilissimi, mi avete commosso sinceramente, lo dico pubblicamente, va bene, grazie ancora di cuore. Maurizio, le tue considerazioni su questo sì, pezzo? Sì, intanto salutiamo Enzo, che è una della famiglia della radio, chiaramente. Caro Enzo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ci rivedremo fra qualche settimana. Esatto, esatto. L'appuntamento è sempre quello. Adesso parliamo di questo pezzo iniziale, è un pezzo molto bello, molto interessante, è un pezzo perché è colorato dalla voce di Valentina. Voce Valentina ha una funzione molto importante in questo pezzo. Innanzitutto il pezzo iniziale, il pezzo da scoprire, il pezzo che apre la finestra, quella gente deve capire, deve sentire, deve comprendere che cosa c'è dietro le altre sei tracce del disco. Pezzo che odora di folk e odora di molto musica inglese, secondo me. E molto inglese, dai capelli ai piedi. Poi sparisce il colore inglese, però questo il violoncello dà molto folk inglese. Io l'ho sentita così il pezzo. Mm-hmm. So, Licia che è qui presente, sei d'accordo? Valentina che è al telefono, e Fabrizia possono dire le loro impressioni su questo pezzo. Io l'ho trovato molto inglese, in senso positivo del termine, assolutamente. No, sono contenta di questo perché io in generale amo tutto quello che viene artisticamente dall'Inghilterra, in particolare musicalmente. Questo brano ha la caratteristica, secondo me, di portare l'ascoltatore dentro al mondo di Never Flowers. Mondo onirico, mondo, esatto, sconosciuto, un mondo un po' di penombra, C'è anche questa parte strumentale molto aperta, molto sognante, con questo vocalizzo molto onirico. Quindi ci sembrava adatto come brano di apertura perché riassume un po' quello che siamo. Un po' posso dire, Enzo, non so se sei d'accordo, un po' la Paul Roland, ti ricordi Paul Roland? Mi ricordo, sì. Paul Roland è un musicista inglese che ha sempre, giocato, nel senso positivo del termine, col violoncello, con quella musica folk, ma il folk, per modo di dire, un folk nascosto, un folk anche misterioso, che turba, secondo me, non so. Se sì, posso arrivare a questo. Assolutamente ci può. Elisa non dice niente. No, io sono qui. Sto qui, sono soprammobile. No, nel senso No, sono d'accordo anch'io. Come ti dicevo nel fuori onda, quando ho ascoltato il disco, secondo me ha delle sonorità pop e mi ha ricordato Chopin. Sono molto più terra terra io su Chopin. Beh, ma anche terra, io assolutamente sono... Chopin è molto più in alto delle mie piccole disquisizioni musicali, delle mie nozioni musicali, e quindi sì, sono quello che dice Elisa sicuramente è vero, perché io amo molto Chopin, l'ho suonato tantissimo. E quindi sicuramente nel mio modo di suonare c'è tanto classico romanticismo. Ecco, esattamente. Sì. Valentina, cosa dici? E anche Fabrizia? Io credo che, a parte i pareri soggettivi che sono interessantissimi, è bello capire ognuno come vede, no? Un po' come leggere una poesia, ognuno ha un'interpretazione diversa. Però sicuramente, personalmente, mi porta in un mondo appunto del sogno. La prima cosa che mi viene in mente istintivamente, appunto, quindi cerco con la voce di rappresentare questo mondo qui, in questo brano. Anche il testo parla di una dimensione parallela. Quindi un sogno, praticamente. Esatto, cioè riferimento anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ai buchi neri che trasportano in altre dimensioni, quindi... Posso dire anche una cosa? Dimmi. Quando l'ho ascoltato la prima volta, ho ascoltato il disco per la prima volta, ho pensato che potesse essere anche molto duttile e per essere utilizzato come colonna sonora. Anche quello, sì, giusto. Sì, è molto da accompagnamento ad immagini. Cioè, proprio a proposito di colonne sonore, qui abbiamo un esperto di cinema, caro Enzo. Esatto, cosa anni di Cineforum. Anni di Cineforum. Festival del cinema. No, beh, io ho ascoltato quello che ho potuto ascoltare, insomma, tramite internet al momento. E, sì, ci sono appunto molte sonorità, diciamo che anche oniriche possiamo definirle. E, mi hanno fatto venire in mente anche alcuni registi italiani, in particolare Sorrentino, mm-hmm. E l'ultimo film La grande bellezza, esattamente. E quindi, insomma, direi che questo connubio con il cinema mi sembra azzeccatissimo. Sì. Sì, decisamente. Anche le ragazze sono d'accordo per il connubio col cinema? Molto interessante. Elisa è stata brava a scogitare. Tra l'altro, noi nei nostri live, quando è possibile, proiettiamo anche delle immagini, vedi, degli spezzoni di film. Ma tu, mi pare che nel tuo curriculum, che è lunghissimo, sì, che ho letto 2-3 pagine, alle 3 di notte, 3-4 di notte, sempre alle 4 di notte, ho visto che hai accompagnato dei film muti e così. Sì, esatto. La caduta della Casacci. Sì, esatto, ho questo vizio. Sono la sua biografa. Grazie, Elisa. Ufficiale. No, è mica un vizio, sicuramente. No, ma lo fanno in molti, tra l'altro, la sonorizzazione della caduta di casa Usher. Sì, si, certo, presta molto. Si presta molto, assolutamente. Sì, sì. Lo ha fatto anche Malene Kunze qualche tempo fa. Esatto. Un po' di tempo fa in Piemonte, caro. Esatto, eccola. Sì. Eccola. Basta chiedere. Lo so, ma questo pezzo non lo posso sentire quando sto a casa da sola, perché mi turba terribilmente. Ti metti nonostante ansia? Lo abbia scritto io. Sì. Veramente spavento. Ma voi siete come voi tutte e tre, insomma, anche quando vi presentate sul palco, io ho visto qualche filmato, siete un po' dark, un po' scure, no? Sì, nei concerti, parlo. Non in senso gotico, proprio nel senso dell'onirico. Infatti appariamo come delle creature che vengono da un'altra parte, secondo me. È vero, Valentina? Semplicemente siamo tremendamente timide. Ah. No, non è solo quello, dai. Dai, no, vabbè. Modesta. Come siete sul palco? Cosa? Come siete, come vi comportate, come siete con il pubblico, insomma, che vi sta davanti, come siete? Dunque, c'è Lisa che è molto eclettica. Beh, lei è seduta, quindi non è che può fare poi più di tanto. No, faccio più io seduta. Seduta veramente notevole. Mentre io sono, nonostante appunto sembrerà strano, sono piuttosto chiusa. Nel senso che quando è il momento di cantare, ok, ma quando devo parlare è veramente un disastro. Preferisco comunicare con la musica. Stessa cosa Fabrizia, dà voce ai suoi pensieri con il violoncello. Beh, tu hai una voce bellissima comunque, Valentina. Grazie. Poi in genere offriamo del vino ai presenti, sì, per confonderli un po' le idee. Abbiamo letto, sì. Ma come mai questa idea? Per coinvolgere il pubblico in un modo particolare. C'è un momento in cui Fabrizia suona un brano da sola e noi andiamo tra le persone per offrire il vino, bello. Sì. Potrebbe ruffiane, essere un'idea anche ruffiane proprio il mio gruppo. Sì, perché poi crea questa atmosfera un po' più da salotto, sì, certo, che si confà abbastanza bene a quello che suoniamo. Lo faceva tempo fare con uno che conoscevi anche te, si chiama ancora Puccini. Esatto. Lo faceva spesso nelle osterie di Bologna, girava per i tavoli, suonava, cantava, sempre fatto così Francesco, grande mitico. Immenso Francesco, mitico Francesco, mitico, che è venuto a Padova 4-5 giorni fa per presentare l'ultima tour, lo sai, no? Alla fila delle parole, esattamente, sì. Ha presentato questo ultimo suo disco, secondo me proprio l'ultimo, definitivo. Francesco è un mito, io una certa generazione, sono un po' anzianotto, è un mito. Francesco. Esattamente, con l'R. Allora, io la prima canzone che ho ascoltato è la traccia numero 2, cioè che ho scoperto, che mm-hmm. Il disco poi l'ho ascoltato dall'inizio, però insomma la prima traccia che ho sentito di questo nuovo lavoro, che non so se me l'hai postata tu addirittura. Se me sì, l'hai è fatta, probabile. The Train to Rovaniemi. Rovaniemi, sì, così come è scritto. Come è scritto, ma come nasce questa canzone? Giustamente. Rovaniemi è il capoluogo della Lapponia. Sì. È un viaggio bellissimo che ho fatto l'anno scorso e in realtà il brano è un brano d'amore. però è un... fa riferimento a questo viaggio notturno lunghissimo dal sud della Finlandia fino alla Lapponia, tra boschi. Quanto è durato questo viaggio? 10-12 ore, non mi ricordo. Insomma, tantissimo. Sì. Ma sei andata in macchina o in treno? In treno. In treno. Un fantastico treno super tecnologico, tra l'altro meraviglioso. Non ci credo. Sono stata tutta la notte con i finestrini aperti a guardare fuori questi boschi. Non ti sei gelata assolutamente? No, era tutto ben sigillato. Ah, è stata un'esperienza emotivamente molto forte e quindi l'ho collegata alla tempestosità dei sentimenti, perché questo attraversare i boschi a grande velocità di notte sapeva un po' di Sturm und Drang. Ah, vero, giusto. E quindi il brano parla di questo. L'ascoltiamo? Sì. E poi magari torniamo in studio. Okay. Voi state lì, mi raccomando. Sì, ci muoviamo. When everything was in its own place and my life was perfect and free, when I just could not ask for more, 'cause I had all I need. When solitude had regenerated me, and every day was new and fun, you came to my side. I desperately love you. when I'm with you. Blue time live. Blue time. Live. Ti leggo quello che ha scritto Maurizio nella recensione di questa serata, insomma, anzi vi leggo visto che c'è anche Valentina e Fabrizio. Allora dice su questa canzone, dice: The Train to Rovaniemi, il folk è lontano, è una chiara canzone pop con un trasporto finale di peso. La voce di Valentina spinge il pezzo su quei sentieri, anche se nella parte finale Licia scombina le carte trasformando il tutto in un rush impressionistico e visionario. Caro a Kate Bush. Beh, non posso che apprezzare. Cosa ne pensate voi? Pronto? Pronto? Grazie mille. Non capiamo. Abbiamo Mi senti? Mi senti adesso? Sì. Hai il telefono che va e viene, Valentina? Non so, io vi sento molto bene. Okay. No, dice, parlava di una bella cosa del pezzo praticamente, poi mettiamo anche sotto i ferri Enzo, perché anche lui ha delle idee, mi pare che vengono fuori, e parlava di il finale da proprio la descrizione della corsa del treno, e questa tua voce, questo tuo vocalizzo incredibile, io per quello ho scritto alla Kate Bush, vocalizzo incredibile senza confini, che va avanti, può andare avanti all'infinito, può essere una jam session che non finisce più, una cosa meravigliosa, è difficile da portare avanti, diceva Alice, come hai fatto a seguire questo treno con le scale del piano? Ma in realtà è un pensiero, quel vocalizzo rappresenta un pensiero che non si ferma mai, è un'implosione, no? Quindi un qualcosa che ha ben poco di tecnico, poi alla fine è molto istintivo. In realtà quando è nato questo vocalizzo, è nato per caso, proprio perché mi sono fatta trasportare da ciò che faceva Licia Sotto e ciò che faceva Fabrizia. Certo. Enzo, io lo vedo anche come angosciante questo vocalizzo, poi chiaramente la Licia poi calma tutto quanto col finale al piano, ritorna al punto di partenza, ma è molto agonciante. Sì, beh, diciamo che si può definire una canzone pop, ma ci sono moltissime altre influenze, tante linee, tanti colori, una canzone pop con tante anime, possiamo dire questo. Esatto, beh, insomma, crea un'atmosfera, insomma, decisamente. Io ricordo un quadro famoso con l'urlo. Può darsi, ci può essere una correlazione, cara Valentina, questo tuo vocalizzo lungo che poi dimmi. Assolutamente. Non ho capito niente. Assolutamente. Assolutamente, scusa. Maurizio, scusate. Ha sempre ragione. Posso... No, non ho ragione, assolutamente. Secondo... appunto per citare. Io sono tuo fan, Maurizio. No, in ogni caso un pezzo molto interessante. Pop sì, però un pop che ha tante facce. Tra l'altro questo fatto del treno che va sempre più verso nord, verso le terre estreme, irraggiungibili, sempre più veloce, credo che porti naturalmente fuori un urlo. Esattamente, un urlo. Quindi il quadro famoso. Vuol dire che lei ha ascoltato bene quello che ho scritto e, e ci ha cantato bene sopra. È stata bravissima. Come tutte sempre. Voi tre. C'è un connubio, come giustamente diceva Valentina. Non c'è una davanti, una di... No, siete tutte e tre sulla stessa linea. C'è grande amicizia fra voi. Insomma. Sì, sì. Ma ci vediamo praticamente tutte le settimane, perché poi questo genere di musica ha anche bisogno di essere molto provato, insomma. Una cosa, hai detto una cosa giusta, bisogno di essere molto provato. Sì. Caro Enzo, adesso c'è la tendenza a provare poco e a diventare subito star. Ci sono le scorciatoie, ma non ci piacciono. Sappiamo, non ci piacciono certe scorciatoie, esatto. Soprattutto televisive, esatto. Non ci piacciono molto. Quelli che arrivano con la gavetta sono i migliori, in questo caso le migliori. Esattamente, con la gavetta, che bisogna sudare per fare un disco, c'è poco da fare. Cara Valentina, cosa dici? Fabrizio? Sudare, sì, abbiamo sudato tanto per questo, soprattutto come magari meglio Licia, una questione di no? Viaggiamo tutte e tre su frequenze medie, sì. Quindi per mixarlo è stata veramente dura. Sì, far uscire bene tutte e tre le voci, tra virgolette, in maniera giusta. Non è stato facile perché in parte si sovrappongono, non è la classica formazione dove c'è uno strumento che fa il basso, uno che fa le medie, uno che fa le alte. Siamo un po' tutte e tre ovunque, quindi ci abbiamo dovuto lavorare un bel po', però il risultato ci piace. Quanto ci avete messo a fare questo disco? Giorni in studio effettivi 7, però spalmati in un mesetto. Sì. Pochi, beh, sono anche 7 brani. Sì, va bene, però c'è chi che un però giorni intendo dalla mattina fino all'1:30 di notte. Ah. Con grande felicità del nostro fonico Clive. C'è chi con due pezzi ci ha messo 2 o 3 mesi. Insomma. Vabbè, certo. Però sono anche 3 strumenti e basta. Insomma. Sono d'accordo con te. Pensavamo però di metterci di meno, invece no. Ci è voluto, però è il tempo giusto, insomma. Non si può correre troppo, perché altrimenti esce fuori qualcosa di qualitativamente inferiore. Certo. Infatti, tra l'altro, credo che sia un tempo, tra virgolette, record rispetto a quello che solitamente si sente anche per il gruppo con la Cantina dei Bardi in acustico. Quanto ci avete messo voi? Un giorno 4 pezzi. Vabbè. Un giorno 4 pezzi, però effettivamente, come ha detto Licia, qualitativamente è un EP. È esattamente, che è diverso. È tutta un'altra cosa. A noi, per esempio, hanno detto che per fare un lavoro ben fatto, un album ufficiale, prodotto, totale, ufficiale, un anno. Vabbè, quindi certo, poi dipende anche da, ci sono persone che arrivano, suonano buona la prima, invece altre che hanno bisogno di entrare nel pezzo, oppure la stessa persona un giorno è già predisposta a suonare tutto come deve essere suonato, un altro giorno si sveglia male e non è così. È vero, quindi bellissimo. Questo pure, insomma, tutto l'umanità, istinto, l'essere umani influenza anche la registrazione. Siccome parla poco Fabrizia, volevo chiedere a lei questo. Fabrizia, questo disco, diciamo, d'esordio per questo trio, è l'inizio di una lunga serie di altri dischi? Avete già in mente qualcosa sotto? Ci spifferate qualche segreto, qualcosa? Ma speriamo di sì, ma non spifferiamo nulla per adesso. Abbiamo tantissimi brani in repertorio e ci piacerebbe sicuramente metterli su disco, però sarà una never surprise. Una never surprise, questo è molto interessante. Never surprise. Beh, io ve lo dico, il disco nuovo lo presentate qui, se volete, se avete voglia, ovviamente. Certo, assolutamente. No, brani non mancano, i brani sono allora, veramente, vedi, tanti. Quindi sì. Beh, insomma, chi è che scrive tutto? Cioè, canzone, testo e musica sei sempre tu. Sì, sono sempre io. Loro non fanno niente, insomma. Loro non fanno nulla, stanno là a aspettare i miei brani e poi, vabbè, mi fanno il favore di eseguirli. No, stiamo scherzando. No, io scrivo, poi ogni tanto i brani vengono anche modificati durante le prove, insomma, cioè e poi un'amalgama che si forma pian piano. E poi diciamo un'altra cosa, Maurizio, dal punto di vista maschile sono una più bella dell'altra. Indubbiamente, cioè, indubbiamente, quello pesa. Le ho scelte apposta. Sono molto più belle dal vivo, sì, quindi vero che siete bellissime? Tutti ben mascherati. Sì, tutti ben mascherati. Vabbè. 3 maschiacci ben mascherati. Sì, 3 camionisti che sembrano 3 ninfe. No, siete veramente 3 belle ragazze. Allora, io direi, visto che sono le 21:40, volevo fare un po' di spazio anche a Alicia, visto che voi purtroppo non ci siete fisicamente qui, però noi vi aspettiamo qui in studio quando avete voglia di passare da queste parti con Licia, ovviamente, fare proprio dal vivo il vostro disco, vero Valentina e Fabrizia? Assolutamente, con molto piacere. Certo. Ecco, allora io volevo chiudere questa parlata su Never Flowers, appunto il disco che porta tra l'altro anche il vostro stesso nome, e con la canzone che chiude il disco, cioè Luminosa, che è una canzone che piace tanto a Maurizio. È bellissima, è proprio la giusto finale delle 7 tracce del disco, perché c'è tutto. In questo pezzo c'è tutti i colori che voi avete espresso nelle altre 6 tracce, secondo me. Grazie. Vi va bene come scelta? Certo. Assolutamente sì, ci piace. Va bene, noi vi salutiamo intanto, che poi lasciamo lo spazio appunto a Alicia, quindi Valentina e Fabrizia, noi vi ringraziamo di cuore di aver dato la vostra disponibilità telefonica, quantomeno, insomma. Grazie mille, grazie a voi. E rinnoviamo l'invito a venire qui, insomma. Ok. Me l'avete promesso in privato? Sì. Ciao ragazzi, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao. Allora, ci ascoltiamo la canzone che, certo, chiude il disco, va bene? Ok. Abbiamo chiuso con Never Flowers, però io volevo aggiungere ancora una cosa lì, cioè, purtroppo abbiamo chiuso con loro, ma insomma, dove si può acquistare il disco e i vostri prossimi concerti, il sito e quant'altro? Ok, allora il disco ci si può richiedere direttamente a noi scrivendoci alla mail neverflowersproject@gmail.com oppure dal nostro sito, c'è cioè un modulo da compilare www.neverflowers.com nella sezione contatti, oppure su Facebook ci trovate la nostra pagina Facebook che è Neverflowers tutto attaccato, e ci potete scrivere anche lì sempre, o per ordinare il disco o per dirci che vi piacciamo, che vi facciamo schifo, insulti. No, non penso insulti. Prossimi concerti invece? Prossimi concerti questo sabato al Contestaccio di Roma. Sabato. Infatti devo tornare apposta, purtroppo volevo farmi un weekend al nord con Elisa, esatto, sì. Invece devo tornare, sarà per la prossima volta. Sarà prossima un volta... Certo. Fugace saluto. Vabbè, la prossima volta sarà, ti fermerai un mese qui a Padova. Quindi avete capito bene, se avete voglia di sentire, insomma, di contattarle, avete tutte le possibilità possibili, giro di parole, per mettervi in contatto con questo nuovo trio della musica. Posso garantire il disco, io e Maurizio l'abbiamo ascoltato veramente interamente ed è un gran bel disco d'esordio. Grazie. Poi oltretutto, quindi, cos'è? Un inizio di una carriera piena di... Noi speriamo di sì, sì. Faremo il possibile. Senti Licello, adesso parliamo di te, che tu sei come il prezzemolo, sei in mezzo dappertutto, cioè... Hai un sacco di attività. Oltre a Never Flowers, tu hai un sacco di progetti, insomma. Adesso sì. Se ce ne vuoi parlare tu, facciamo un po' di storia della tua storia, insomma, musicale sto parlando ovviamente. Ma io suono come solista innanzitutto, ho inciso 4 dischi come pianista e compositrice, di cui l'ultimo deve ancora uscire, si chiama Neverland, però sono già usciti 2 video che trovate su YouTube, i brani sono Autunno e Neverland, che dà il nome al disco. Ve lo devo dire che sono bellissimi? No, non serve, lo sapete già. Io non lo posso dire. Io sì, lo dico io, sia il video che anche le canzoni. Grazie. Prego. Poi ho un progetto rock che si chiama The Dark Side of Venus. Ecco, il lato The Dark Side of Venus, e questo è importante. Venus era un famoso pezzo di Shocking Blue, e The Dark Side lo conoscono tutti, chiaramente. Ecco. È una cosa tra il passato e il presente. Un passato, mix, dimmi, un mix vincente. È sempre, cioè il rock è sempre vincente in ogni caso, per noi lo vecchi rockettari. La contaminazione è fondamentale, Maurizio. Si fa bene, contaminare fa bene, secondo me. Ha sempre fatto bene la musica contaminazione. Cosa dici? Assolutamente, dici? Infatti Dark Side of Venus sono l'emblema della contaminazione. Esattamente. Diciamo, un genere che accoglie quasi qualsiasi influenza. Dal celtico alla new wave, per il rock melodico, insomma, veramente siamo aperti a piano. E allora poi la formazione è quella classica rock, quindi batteria, chitarra elettrica o acustica a seconda dei brani, basso e tastiere. Tastiere, che sei te praticamente, esatto, sono. Occasionalmente sinta tracolla. Bello, bello, proprio da rockettare. E poi abbiamo una cantante che è Ida Elena. E questo è il mio progetto rock. Poi collaboro con altre band, tra cui Spiral 69, che è una band dark wave. Ma cosa vuol dire dark wave? Per gli ascoltatori che non lo sanno. Guarda, loro lo sanno cosa vuol dire, io sinceramente no. Perfetto. però è una band che ha delle radici quali Cure, Joy Division, ecco, Nick quello. Cave, questo immaginario qui. Poi ovviamente si va oltre, certo, quindi adesso certo. Abbiamo uno ci stile. Piacciono. So che esatto. Ti piacciono, esatto, soprattutto molto. I Joy Division molto, fanno esatto, parte sì. Del tuo curriculum. Esattamente, eh. Sì. Anche Elisa che è giovane, lei è giovane, però Joy Division è un perno di tutta la musica di un certo tenore, certo. Di un certo colore. Sì, questo progetto che sta andando bene anche all'est Europa soprattutto, adesso abbiamo fatto una data a Mosca. Bene, complimenti. E poi io ho collaborato fino a poco tempo fa con i Bella Donna. Che sono... un gruppo di un certo peso. Sì, un gran bel gruppo, ormai attivo da un bel po' di anni. Abbiamo fatto vari tour europei, in Inghilterra, Repubblica Ceca, Germania, insomma abbiamo girato un bel po'. Però a un certo punto i miei gruppi stanno diventando troppi, quindi cosa facevi a mantenerli tutti? Sì. Esattamente. Praticamente non hai mai tempo per te stessa, sempre suonare, insomma. No, infatti è paradossale. Ma quanta perché... soddisfazione ti dà questa grande passione? La soddisfazione, cioè... speriamo di ottenere anche di più per il futuro, perché si lavora tanto, insomma. Beh, ma tu stai lavorando appunto tantissimo, sì, quindi insomma... Sto facendo il possibile, umanamente, credo. Ma poi te lo meriti. Senti, posso dire una cosa? No. Okay. Il microfono aperto. No, volevo dire che ho notato questa cosa anche proprio in Licia, che è uno stimolo vivente, ma nel senso buono, cioè un complimento, e credo che si ripercuota anche nella scelta dei titoli, come si diceva prima, dei gruppi. Infatti The Dark Side of Venus, hai Venus, Venere che dovrebbe essere femminilità, dolcezza, eccetera. The Dark però Side, lato ha un oscuro. Lato oscuro. E la stessa cosa che avevo notato era proprio nella scelta del nome dei Never Flowers, e credo che rappresenti molto la sua personalità. Cioè, giusto, questi due no. Lati assolutamente, quello cioè, solare, luce e ombra, esatto, luce e ombra. Beh, voi vi conoscete bene, quindi una e l'altra, insomma, quindi ci ha visto giusto. Ci ha visto giusto. Poi le sentiremo anche, vi faranno una sorpresa poi più avanti, insomma. Lì ci mettiamo in funzione allora, le tue qualità, le tue mani. Cosa ci fai ascoltare adesso? Vi faccio ascoltare un brano del mio penultimo disco, che è Amore e Morte, e si intitola Intro The Slave. tutta un'altra cosa. Il disco si chiama Amore e Morte, vero? Sì. Forse la prima parte, non so se è vero quello che dico ad io, può darsi che sia, non sia vero. La prima parte forse era l'amore, l'ultima parte era la morte, la sofferenza. Sì, due volti della stessa cosa. Due volti della stessa moneta praticamente. Sì. Un bel pezzo, molto Infatti bello. Questo è il primo brano del disco, quindi è quello che porta un po' dentro... Al progetto, è un progetto, un viaggio che hai fatto te. Sì, è una sorta di concept album, proprio concepito così, e a suo tempo ho fatto dei concerti che prevedevano anche delle parti multimediali, proiezioni di immagini, è stato realizzato un quadro, c'erano delle parti recitate, insomma era una cosa molto ampia, quindi è stato un bel progetto. È una caratteristica questo disco, Maurizio, credo sia uno dei pochi in Italia, forse anche al mondo, ad contenere 23 tracce in un disco singolo. Bene, molto, molto interessante. Però sono per lo più molto brevi, quindi in totale dura meno di un'ora. Beh, insomma, molto brevi, ce n'è una che dura 6:21. Vabbè, ce n'è però una... è l'unica, stai parando. Un'altra 3, ce n'è una che dura 10 secondi, diciamola tutta. Non la vedo. Vuole 10. Cavillare. Ah, sì, 11. Sta cavillando. Sì. Lei parlava di concept, è un disco da 23 minuti e può solo essere un concept, secondo me, cioè al di là è proprio il concetto del concept, che non può essere un disco di 3-4 tracce, deve essere un disco che abbia un certo quoziente di tracce. Ci sono 23. Anche dei temi che ritornano tra un brano e l'altro, è molto prog in alcuni momenti. Sì. Cosa dici? Sì, la tendenza delle piccoli inserti è una tendenza assolutamente prog. Il mio concept album di riferimento è Sgt. Pepper's dei Beatles. Ecco, quello è il massimo delle cose possibili. Esatto, quello è il mio album, il mio concept album preferito. Per il resto, l'idea che sta alla base del disco è un'idea più che altro cinematografica. Cioè l'uso del flashback e del flash forward. Esattamente, questo è un pezzo anche cinematografico, un po' da Dario Argento alla finale, cosa dici? Esatto. Tu che sei un esperto di... anche delle commedie nere. Beh, dai, ci piacciono, diciamo. Ci piacciono. Ci piacciono. Infatti sì. È stato inserito anche nella sonorizzazione della caduta della casa Usher. Ecco, vedi. Non è un genere propriamente di film italiani, ma insomma ultimamente qualcosa è stato fatto, tipo La variabile umana con Silvio Orlando, però insomma un genere più magari che forse si trova nel cinema europeo, penso, più che italiano, insomma, comunque. E suonare davanti a uno schermo, che sensazione dà? Una volta si faceva sempre, una volta non c'era il cinema muto, quindi suonavano, c'era l'orchestra che suonava e le immagini scorrevano. È bello perché ti dà la fusione con un'altra cosa. Io guardo molto lo schermo quando faccio la sonorizzazione perché voglio proprio sottolineare i momenti, cioè determinati momenti del film con determinate intenzioni sui tasti. Non vado per conto mio, mi piace proprio aderire parecchio al film. Bello, questa è una cosa molto interessante, anche visivamente da vedere, essere testimoni del tuo sforzo per cercare di carpire l'immagine. Dal 2003 ho dei biografi impeccabili. Tu scrivi poesie. Sì, ho pubblicato un libro l'anno scorso che si chiama Dolce Notte Tossica, che racchiude queste poesie che la sono... prossima volta me lo fai leggere, vero? Giusto, è vero. Questa è l'unica cosa che non ti ho mandato. Ecco, vabbè, me lo manderai. Io l'ho letto, tiè. Sì, ecco. L'hai letto te. Le solite preferenze. Domani lo andiamo a prendere, Maurizio. Andiamo giù a Roma. Ho anche declamato una poesia qui a Padova. Sì? Una delle sue. Sì. Piccolo... è vero, piccolo cuore infranto. Piccolo cuore infranto. In che occasione? Era la giornata mondiale della poesia e abbiamo fatto una lettura a mio vecchio Nadia. Lavoro. A Progetto Giovani, qui era palco aperto e io ho detto... Hai letto la sua poesia? Ho letto la sua poesia. Non è che te la ricordi, vero? No. Non mi ricordo cosa mangio. Non l'hai imparata a memoria, Elisa. No. Però no, dicevi allora. Sì, ho scritto molte poesie come autoterapia, non con ambizioni particolari di essere una poetessa, una letterata, una scrittrice. L'ho fatto perché ne avevo bisogno. Poi ho partecipato con qualcuna di queste poesie a dei concorsi e inaspettatamente, nel senso che io non mi aspettavo niente, insomma, a priori, sono piaciute spesso. Quindi poi ho trovato una casa editrice interessata e ho detto, vabbè, piuttosto che lasciarle morire nel mio hard disk... Le pubblichiamo. Le pubblichiamo. Ma è stato un caso fortuito questo o è l'inizio anche lì di altri libri che farai? Insomma? Non lo so, perché le poesie non sono una cosa che scrivo sempre, le scrivo soltanto quando ti vengono. Sì. Quindi non lo so. Un po' come i testi delle canzoni, insomma. Sì, sì. Ci sono periodi in cui scrivo solo strumentale, periodi in cui scrivo invece quasi solo canzoni con testi. quindi è un po' imprevedibile. Però non si sa mai. Anche con Never Flowers spesso inseriamo delle parti recitate nei live. Ah. Sì. Cosiddetti reading, cosa dici Enzo? È una cosa che si usava negli anni 60, spesso e volentieri, quando i poeti americani venivano qua, c'erano chi presentava, e poi c'erano i cantastorie, i cantautori che suonavano. È una cosa che si ritorna a tematiche di un tempo, positive chiaramente. E la Beat Generation fa parte proprio, è proprio il fulcro del reading, del cosiddetto parlare, spiegare. Voi spiegate, nel tuo caso, quando fai un concerto da solista, spieghi al pubblico i pezzi. Certo. Ecco, vedi, è una cosa interessante questa, perché la gente deve capire. Sì. Anche può capirlo lo stesso. Certo, magari mi affido alle proiezioni. Ecco, esattamente. Sì. Sì, sì, metto degli indizi. Ecco, metti degli indizi. Sì, mi piace di più piuttosto che parlarne, anche perché alcune cose secondo me non si possono spiegare così, parlando normalmente. Ci si arriva di più per impressioni, per associazioni di idee. Più che altro perché a volte mentre spieghi ti sembra di essere banale. Cioè, sì, le parole da sole sono un po' limitative. Invece l'associazione magari di immagini, di parole e di musica producono dei contenuti veramente nuovi. Da una portata emotiva diversa, più di impatto. Elisa, che dici se salutiamo Giulia? Ha scritto tanta roba riferendosi al live adesso che sta ascoltando. Grazie. Ti facciamo sentire ancora tanta roba. Cosa ci fai ascoltare, Alice? Dato che siamo in tema, vi faccio ascoltare La caduta della casa Usher. Thank you. Grazie. La platea ti ha tributato l'applauso. Siamo pochi, ma buoni. Palcoscenico. Eh sì, noi abbiamo visto le immagini scorrere in sì, questo infatti. Momento. Sì, è proprio così. Cosa. È una sensazione. Io ho avuto questa sensazione, caro Enzo. Cosa dici te? È vero, ha creato un'atmosfera veramente incredibile. Molto intensa. Sì, veramente molto intensa. Siamo rimasti tutti così. Non abbiamo neanche. E chi ti molla esatto. più stasera? Tu resti qua con noi fino alle 5 di mattina. Standing ovation. No, bravissima, una cosa incredibile, veramente. Grazie. È sempre emozionante comunque sentire la musica dal vivo in acustico. Beh, certo. Ma anche non insomma. C'è un'altra vitalità anche perché inesorabilmente lo studio di registrazione un pochino certe cose te le inibisce, è castrante. Diverso, sì. Sì, sì, purtroppo sì, per quanto ti puoi impegnare a essere il massimo dell'espressività, però non è un live. Poi insomma, noi che siamo qui abbiamo visto la piovra dirigersi su tutti i tasti. Sì, io ho un modo di suonare che contrariamente a tanti pianisti contemporanei che tendono a minimizzare il numero di tasti, cioè, lo massimizzo. Sì, ho questa tendenza che mi viene proprio dall'amore per Chopin e per i classici romantici che usano tutte le note del pianoforte dalla prima all'ultima. Certo. Mi piace molto polarizzare bassissime, altissime. Poi su questo brano ci stava particolarmente bene perché crea tensione. Quindi, A proposito, Enzo, dicevi sì, il discorso della tensione di questo, come mai hai deciso di ispirarti, cioè di corollare, di dare il colore a questa manifestazione cinematografica? Perché? Proprio a questa manifestazione cinematografica. Mi è stato proposto da un ragazzo che ha organizzato un cineforum nel 2008 a Roma e all'inizio ho detto vabbè, ma io non lo so fare, ma come si fa? Ma perché non l'avevo mai fatto, insomma. Avevo sempre composto musica di per sé, senza... E invece poi vedendo questo film la musica è venuta da sé. E questo brano in particolare è un po' il riassunto dei temi principali che ho utilizzato. E il film mi ha proprio generato delle melodie, quindi ho scoperto questo potere dell'immagine che ti può veramente... puoi interiorizzare delle cose dall'immagine e riesprimerle in un altro modo. Insomma, è possibile che capita in un film di dare questa colorazione, questo progetto? Beh sì, questo... poi insomma, nel film è, diciamo che insomma, la colonna sonora ha un ruolo secondo me molto importante, insomma a volte anche fondamentale. Adesso vedremo insomma i prossimi Oscar, staremo attenti magari quest'anno più di altre volte chi vincerà l'Oscar per la migliore colonna sonora. Dopo questa, perché a volte magari anche nel film noi ci concentriamo ovviamente sull'immagine, sulla fotografia, ma a me personalmente penso che la colonna sonora sia importante. Basta vedere una scena di tensione senza la musica, non trasmette più niente. Non trasmette niente, sì. Esattamente. 007 senza musica trasmette certo. poco. Okay. Esatto. Mi viene in mente una cosa che abbiamo fatto qui in studio, perché noi siamo aperti a tutte le esperienze possibili e immaginarie, Maurizio forse te lo ricorderai anche tu. Una band romana è venuta qui a presentare una colonna sonora, o meglio, un video, cioè un concerto che fanno loro con le immagini del film di Stanley Kubrick, cioè Shining. Loro facevano in diretta la colonna sonora cantata mentre al cinema facevano vedere il film. È stato fatto qui questo esperimento qui a Padova e ce l'hanno presentato qui in studio. Guarda, hanno fatto tra l'altro un disco molto bello perché è suonato poi con questa atmosfera, sai, un po' così scupe, insomma Shining lo conosci, l'hai visto, e sono venuti qui, si chiamano Le Rane Strane, non so se le conosci. No, non li conosco, sì, anzi sì. Grazie, così vateli a vedere, a sentire, sì. Casomai ti giro tutto, certo. E te le faccio sentire, insomma. Allora si dice aspetta che te lo dico subito, perché c'è Paolo dall'Emilia Romagna che tra l'altro vi ha scoperto anche perché io ho messo la canzone, dice: ciao Agostino, mi sono perso The Train to Rovaniemi, mi aveva fatto impazzire quando qualche mese fa l'avevi messa su Facebook e purtroppo Paolo te la sei persa perché allora devi prendere il disco necessariamente, sì. E scrivi a Alicia o alle altre due, anzi le Never Flowers in sé, insomma ti manderanno il disco. Allora Alicia, vuoi riposarti un po' e facciamo ascoltare quello che tu dici, che uscirà fra poco, fra poco, fra spero poco. È un brano il cui video è già su YouTube, quindi potete anche vederlo su YouTube e si intitola Autunno. Autunno. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Questa è l'ultima Licia Missori, insomma. Sì. Questo la disco, più recente. Quante canzoni ci sono? 12. È più piccolino, dura mezz'ora, è molto breve il disco, perché ho voluto selezionare proprio soltanto le cose che mi convincevano al 100%. Ho fatto un lavoro completamente diverso da quello dell'album precedente, che, dove invece dico tante cose. Qui cerco di dirne poche, ma molto bene, spero. E qui c'è anche il lavoro di sintesi. C'è anche Valentina dentro. Sì, c'è Valentina che insieme alla cantante dei Dark Side of Venus, Ida Elena, hanno cantato uno dei brani, che tra l'altro è la title track, quella che dà il titolo all'album, si chiama Neverland. Anche di questo abbiamo realizzato un videoclip, sempre con ambientazione naturale in un bosco, che è su YouTube. Quindi se volete vederlo, Licia Missori, Neverland. Io direi, se tu sei d'accordo, lo facciamo ascoltare, certo, anche subito. Maurizio, volevi dire qualcosa? Sì, volevo solo dire a proposito che Licia diceva, parlava di utilizzare tutto il pianoforte completamente. In questo pezzo si sente utilizzato tutto il pianoforte, sì, fino all'ultima, sì, ultima nota là in fondo. Perché è giusto che sia così? Perché sì, Chopin c'entra qualcosina qua, chiaramente, sì, in un modo, quella fonte di ispirazione che vaga. Chiaramente è un pezzo autunno, dà una colorazione autunnale e malinconico, ma un malinconico no, pressante, un malinconico appena appena sussurrato, secondo me. Sì. E questo uso totale del piano dà un certo senso, anche di vivacità. Sì, anche luminoso. Esattamente, sì, un luminoso malinconico, sì, perché che l'autunno ha, ha dei colori non, sì, prettamente oscuri, ma tenebrosi, un po' si vedono, un po' non, sì, si, l'autunno vedono. Ha questa caratteristica che è coloratissimo, però è lì lì per scomparire, per diventare inverno. Esattamente, sì. E quindi giustamente autunno fatto in questa, con questa sonorità va bene così, chiaramente. Neverland. Speak right to your heart. What am I? Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Quei pezzi, quel momento che abbiamo sentito adesso, è molto Mitteleuropa, molto cabarettistica. Qui c'è la Germania che, bene, secondo me, entra leggermente. Non so se sei d'accordo. Guarda, questo brano è nato nel dormiveglia, nel senso che io stavo proprio dormendo. Mm. E questa melodia mi si scriveva in testa da sola. E a un certo punto mi ha costretto ad alzarmi e andarla a suonare. Io ero anche arrabbiata perché volevo dormire. Quindi, invece, ti hai percosso dentro praticamente. Sì, quindi è qualcosa che è nato in un momento di estrema libertà. Mm. Cioè, le mie difese mentali erano completamente a terra, io ero completamente libera. No? Questo, infatti, spesso nel dormiveglia vengono le idee. Ma io l'ho sentita da Mitteleuropa. Da, quindi, da, sì, è possibile che ci siano delle influenze tedesche, soprattutto con, sì, con la voce di anche Valentina. Anche inconsce. Con la voce di Valentina mi ha ricordato qualcosa del teatro tedesco. Poi ha questo ritornello estremamente aperto, che sa, così di, un po' di Broadway, insomma. Anche quello, queste certo. aree ma tu hai alla fatto memory. Tu hai fatto musical, quindi. Sì, mi è capitato. Ti è capitato. Tra l'altro adesso farò il Rocky Horror. Ah, Peter Show, bellissimo. Il 31 ottobre al Jailbreak di Roma. Insomma. Cosa dici? Anche se butta, se butta, come dicono a Roma, si butta praticamente anche in questo genere. Esatto. Se ci invita andiamo giù il 31. Esattamente. Allora, sì, io sono a casa perché il 31. Esattamente. È molto divertente. È molto ovviamente, Rocky Horror. Sì. Due voci femminili. Il musical è scomparso però alla fine, assolutamente. E c'era solo un incipit bello, però poi è scomparso e si ritorna al tema conduttore. Cosa sì. ci dice? Sì, questo è un brano circolare. È un brano circolare. Finisce bellissimo. Come inizia. Come inizia, esattamente. Questa è una cosa abbastanza tipica anche dei pezzi di Neverflowers. È vero. C'è questa circolarità per cui alla fine quasi non sai se hai sognato o se era vero. Se era vero. Stai come all'inizio. Sì. Benissimo. Sì. Licia, cosa ci fai sentire adesso dal vivo? Ti faccio sentire qualcosa del nuovo album. E sto pensando cosa. Facciamo Foglie rosse nel vento. Già un commento da parte di Vincenzo Rao, dice, aspetta che te lo dico subito esattamente, dice: allora fai un complimenti alla ragazza che canta, è bravissima, e anche lì in studio la trasmissione è molto bella, sto ascoltando la diretta, fai un saluto e complimenti, e poi dice: davvero bravissime, ho la pelle d'oca. Grazie. Si chiama Vincenzo. Grazie, quindi Vincenzo. Ciao Vincenzo. E poi Paolo chiede dove, se vuoi gentilmente ricordare dove si può trovare il disco delle Neverflowers e anche di tuoi, insomma. Sì, se ci può scrivere alla nostra pagina Facebook, forse è la cosa più semplice, ci manda un messaggio privato sulla nostra pagina Neverflowers, oppure un'email a neverflowersproject@gmail.com. Ecco. E ci può chiedere il disco in tante copie. Solo ne vuole. Il disco, Paolo. Solo il disco. Anche un autografo. Ecco. Come si chiamava questo pezzo, Licia? Foglie rosse nel vento. Foglie rosse nel vento. C'è il vento qua nel piano. Sicuramente sì. C'è il vento. questa corsa, questa che scorre sì, velocissimamente o velocemente a secondo dei momenti, sì, degli istanti. Come l'hai immaginato questo pezzo? Come l'hai costruito? Come ti è venuta l'ispirazione? Questo è uno di quei brani che io chiamo paesaggistici, nel senso che ho un'immagine... Può fare un documentario questo qua. Sì, avevo proprio in mente questo vento che trasporta, che smuove i rami pieni di foglie rosse in autunno, che è un'immagine molto bella che ho visto a volte in campagna, in Abruzzo. Certo. E quindi evidentemente ha acceso un mio stato d'animo e è uscito fuori questo E queste pezzo. Foglie che cadono vengono contraddistinte dalle note nere del piano. Mentre nelle note bianche, cioè i tasti bianchi, hanno un altro colore, secondo me. Tra l'altro, prima si parlava di Satie. Esatto, qua Satie c'è. Qua mi ricorda Jan Tiersen, due. Sì, Jan Tiersen che poi ha sempre preso ispirazione da Satie, anche sì, lui, chiaramente. Due film, Goodbye Lenin, certo. Ma soprattutto Amélie Poulain. Sì, Amélie, quindi... caro Enzo, tu che l'hai fatto vedere un sacco di volte, Amélie. Le abbiamo fatte entrambe al Cineforum ormai qualche anno fa, però insomma sì, sono due film... carte, si può dire. E la colonna sonora è molto importante in quei film là, fondamentale. Assolutamente. Di proprio l'espressione della colonna sonora, dà proprio l'espressione, dà proprio l'intonazione, il modo di proseguire nel discorso cinematografico. Ringraziamo sempre Satie, che parte sempre da lui, quindi Francis. Merci Satie. Esatto. Guarda che vogliamo una percentuale sulle vendite qui, perché stanno chiedendo come si può avere il disco. Io sto rispondendo a loro dove ti possono contattare su Facebook, anche come Neverflowers ovviamente. Va via come il pane. Dice che vuole il disco, questo vuole un suo disco firmato, anche questo addirittura. Volentieri. Vale di più come libro di Pelé, visto adesso ha fatto un libro che pesa non so quanto, e con l'autografo vale. Vero. Doppio come minimo con l'autografo. Libro di Pelé. Oggi l'ho visto oggi. Sì, ti regala anche il pallone e ti spiega come faceva. So che è grande, sarà largo un metro e pesa non so quanto. È il libro di Pelé. Esatto, tutta la sua vita. Sì. Io ne approfitto prima di chiudere la trasmissione, Licia, se mi consenti, di ringraziare Claudio Tiso, che è quello che ti ha fornito quella meraviglia che stai suonando tu. Sì, grazie Claudio. Grazie mille. È stato gentilissimo. Claudio, ricordiamolo, è il tastierista, insomma, dei Witmetrics, la tribute band dei Pink Floyd. Ancora una canzone, poi ci salutiamo con la canzone con Elisa. Cosa ci fai scontare? Ancora il disco nuovo. Tra l'altro, ricordiamo che il disco nuovo, questo Neverland, deve ancora uscire. Sì, deve ancora uscire. È stato prodotto dalla rivista Suono. Che è una rivista importante, sì, una rivista che ha fondato le famose riviste italiane, caro Enzo. Esatto, noi le sosteniamo sempre. Ultimo Buscadero, partono tutti da Suono, esatto, quindi molti anni fa. Però è imminente l'uscita, insomma, giusto? Dovrebbe essere imminente. Noi... il disco c'è già, quindi è tutto pronto. È tutto pronto, quindi a breve uscirà anche il disco, comunque lei vi terrà informati su tutto questo. Cosa ci fa ascoltare? Ancora una canzone dall'ultimo? Sì, vi faccio ascoltare un brano che si chiama Antartide. Ok. abbiamo ascoltato tre canzoni, quattro dal disco nuovo, ma insomma si preannuncia un disco splendido. Grazie. Questo è un pezzo che ha una caratteristica. Di solito i pezzi si ascoltano con un religioso silenzio. L'Antartide è tanto silenzio, è una discesa enorme di ghiaccio con tanto silenzio. È un pezzo da sentire con religioso silenzio, quindi si avvicina al discorso, al progetto, all'immagine dell'Antartide. E in primer nei tasti neri percussivi da questa sensazione del ghiaccio, sì, proprio del cristallo, del cristallo, sì. Esattamente, proprio quello, ecco. Io ho avuto questa sensazione 22 e 27, quella proprio dal vivo, Adesso non voglio dire una cavolata, sono brevissima, ma a me mi ha fatto venire in mente questa canzone, non so se la conosci, The Big Dipper di Elisa, ed è sempre una costellazione, quindi ascoltatela per sentirla. È molto evocativo. Io ne approfitto per salutare Yuri ed Elisabetta che ci stanno ascoltando. Hanno messo un mi piace. E poi ti tocca un'incombenza, Licia. Ti chiedono di salutare una mamma che abita e vive in Calabria e che ti sta ascoltando e si chiama Caterina. Ciao Caterina. Da parte di ciao. Quindi salutiamo anche la Calabria che ci sta ascoltando, anche il Veneto, l'Emilia Romagna ovviamente, la Lombardia. Insomma, un po' d'Italia c'è questa sera che ti sta ascoltando e sta scoprendo, insomma, questo grazie di essere qui. E grazie a te, lo diciamo adesso noi perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Purtroppo il tempo, quando si sta bene, lo dico sempre, vola velocemente. Io ti terrei qui fino a domani mattina, Alicia, ma ti aspetto per una seconda puntata. Tornerò. Magari anche con il disco nuovo, tuo. E con le mie colleghe soprattutto. E un'altra volta con le tue colleghe, insomma. Tanto Claudio, hai visto, ci dà la tastiera, quindi non c'è. Allora, ci salutiamo con l'ultima canzone, che è una canzone che avete scritto insieme tu ed Elisa, giusto? Sì. Sì, l'abbiamo scritta insieme nel 2010. Sì. Nel 2010, dopo un laboratorio, si chiama Anima Nera, e adesso sento molto la cosa di Valentina, perché ha una voce bellissima, cercherò di dare il meglio, perdonatemi ascoltatori. Licia, vabbè, Elisa, io ormai ci sentiamo spesso, quindi insomma la vediamo anche più spesso di te, e noi ti ringraziamo veramente di cuore. Grazie a voi di avermi invitata qui. Sai che ci tenevo tantissimo, ho avuto piacere, e anzi io ne approfitto anche per ringraziare proprio Elisa, perché è stato lei il gancio per arrivare a te, il contatto insomma che mi ha fatto scoprire la tua bravura al piano, insomma. Beh, grazie a voi, così me l'avete portata qui. E quindi noi ti aspettiamo veramente di cuore, te lo diciamo, ti aspettiamo per i prossimi dischi, insomma. Non mancherò. Sia con le Neverflower, che salutiamo, sono cioè Valentina Spreca e Fabrizia Pandimiglio. Ciao. Questo progetto nuovo che è bellissimo, ringraziamo ovviamente Maurizio, il tuo vicino Enzo. Grazie a voi. Che poi ci risenteremo io e te, se sarà tutto a posto, esatto. Il giorno 30. Esatto. E invece io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima con il musical. Ritorna, sapete, a distanza di 15 giorni, torna sempre il musical. La settimana prossima ci sono i Tipo Come, che presentano, insomma, Al di là del vetro, un musical inedito, e saranno qui numerosissimi, mi hanno già detto il numero, ma non vi dirò il numero, dico per non prendere paura, saranno tantissimi qui in studio. Maurizio, ti dovrai stringere. Faremo. C'è problema. E quindi l'appuntamento è sempre giovedì prossimo dalle 21, però ci sono anche mercoledì probabilmente, giusto? Sì, sicuramente ci sarà il mercoledì, perché ci sono i Dark Ages, a proposito di musica di un certo tipo, di un certo colore. Dura ma non durissima, e una bella prospettiva, mercoledì prossimo ore 22 in diretta. E poi, ma dovete vedere il sito, cari ascoltatori, abbiamo tanti appuntamenti da lunedì fino al venerdì. Certo. Licia, ci siamo dimenticati prima di dirti, se vuoi venire anche con il Dark Side of the Venus, quando c'è il disco, anche lì, Grazie. Fai contento Maurizio di sicuro, perché lui ama quella musica. Indubbiamente. Il rock fa sempre bene alla salute. Vedi. Sono d'accordo. Si illumina. L'ultima cosa, dove si potrà trovare e dove si possono trovare i tuoi dischi? Basta sempre contattarti? Allora, i miei primi due dischi sono già distribuiti online, quindi li trovate su iTunes, negozi vari, si chiamano Flower Emotions e Nuit Blanche. E il terzo disco invece non è ancora distribuito in digitale, ma lo sarà a breve. Quello che contiene La caduta della casa Usher e tutti quei brani un po' più inquietanti. E invece Neverland deve ancora uscire, quindi restate sintonizzati, così quando uscirà lo saprete. Se volete contattarla, o Neverflowers o Licia. Oppure Licia Missori. sempre Facebook, sito, no, Jazz Memole lì è il mio nickname per il mio profilo, però ho la mia pagina pubblica che è Licia Missori, quindi mi trovate lì. Scrivete lì, insomma, lei sarà ben felice di accontentarvi. Grazie ancora, un abbraccio, un bacione e in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie, crepi il lupo. Come se respirassi a me, Zaria. Se guardassi il cielo vuota, senza filtri né difese, spara, miccia accesa, mina vago nell'aria. È come se parlassi contro un muro, è come se parlassi contro un muro, goccia dopo goccia. Questa bestia che c'è in me.